onda Piazza Alta, un programma di e con Marsi e Enzino, alla conduzione tecnica Simone. Hone. Oggi, ma che giorno è oggi? Oggi è giovedì. Oggi è giovedì. 8 gennaio 2015, per la prima volta in voce nel nuovo anno. E incredibilmente io sono veramente coinvolto in questa trasmissione. Come direbbe Celentano, l'emozione non ha voce, ma essendo in radio però. Se non fosse per la malattia che mi sta aggredendo, potrei avere anche dei ricordi diretti sull'argomento di questa sera. Sarà una puntatona. Questa è Piazza Alta, non mancate, non andate via perché sarà bellissimo. Ma parleremo di cultura. Ragazzi. Ma alta, ma anche io al secondo piano. Ma anche, c'è anche oltre il lucernario, mi sembra. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in a big heart. She comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Eddie Vedder con Hard Sun. No, per dire dove l'ho fatto inglese. Questo era il disco che è stato usato come colonna sonora nel film di Sean Penn Into the Wild. Dentro... Bellissimo, sono un uomo diverso. Ma da un po'. Allora, la situazione è questa. Prima di tutto, Enzo, vorrei ringraziare Paolo e Maria che ci hanno preceduti, che ci hanno fatto come sempre un grandissimo intro sulla nostra trasmissione. Piazza Alta, il giovedì sera, Foiano, appuntamento fisso. Beh. A questo punto salutiamoci e andiamo bene. Stiamo tutti bene. Cosa siamo? Ma soprattutto chi siamo e dove andiamo? Siamo un programma impegnato, diciamolo. Sì, è un periodo, ci siamo impegnati, essere... nonostante non sembri, però siamo impegnati. E ci hanno anche tirato dentro a certi progetti che adesso andremo ad enucleare. E come facciamo a farci ascoltare? Nel modo tradizionale, siamo una radio, c'è una frequenza 101.2, ma anche noi nei modi meno tradizionali. Per te che sei... A questo allora, punto adesso interviene sono tradizionali, perché in streaming su www.radiof.it questa sera non ho voce, prosegui. E potete scaricare le nostre app per Android e Apple. Dall'app e Radio F. Ma questa sera, caro il mio Marci, annunciamo finalmente già... intanto è la prima volta che andiamo in onda nel 2015, quindi a chi ci ascolta un augurio di uno splendido 2015. E se vi piace questa cosa, questo concetto, potete tranquillamente andare su Facebook, sulla nostra pagina ufficiale, e struncare i like. Ok, allora, ma questa sera l'argomento della puntata è una cosa che mai ci saremmo aspettati di fare. Infatti, sicuramente per l'altezza c'è un errore. Esatto, iniziamo appunto l'anno in modo altissimo. Parliamo di uno dei maggiori vanti del nostro paese, caro il mio Marci, ovvero che stranamente non è il carnevale in questo caso. No, è un altro vanto. Dentro in tutti. È un altro vanto, è l'Istituto Tecnico Settore Economico di Laparelli, Laparelli di Foiano, ma che è meglio conosciuta da tutti, da me per primo che ignobilmente ho calcato certi banchi, e che mi è riconosciuta come Ragioneria. Attenzione! Non va. Aspetta, fermo che la rifacciamo. Chissà perché. Ecco, c'ho un'idea, te la dico dopo. Attenzione. Fra Luca Pacioli, detto il Paciolo, classe 1445, religioso, matematico, economista, un'icona dei nostri tempi. Sue tra l'altro la Summa di aritmetica, geometria e proporzioni. A lui si deve soprattutto la codifica del concetto di partita doppia, un do ut des, un dare avere, un to qui da qua di inesauribile valore. Un tesoro che a Foiano è gelosamente custodito, valorizzato e tramandato. Questa sera a Piazza Alta. La musica che senti è il funerale di questi anni che non si legano bene, è tutto un funerale. Guarda come piange la gente sotto il cielo di questo avvenire. Non mi invitare al funerale. La stagione è andata male, che seppelliscono le idee e tutto resta sempre uguale. E se ti chiedono di me, che non ricordi bene, forse mi hai lasciato sotto il sole a bere una spremuta di limone, forse mi hai scendo sotto il sole, sulla tomba di un mondo che muore, sulla crisi di una passione, di un paese che non ha più nome. Funerale. No, non ti devi disturbare. E se ti chiedono di me, digli che non ricordi bene. Forse mi hai lasciato come un fiore sulla tomba di un mondo che muore, sulla tomba di un mondo che muore, di un paese che non ha più nome, e questa era l'ultima festa di Nada. E dopo queste ovviamente non gliene hanno fatte fare più. Bravo, perché... pensa caro Marzi che questo è un disco registrato in presa diretta nel marzo del 2014 alle Officine Meccaniche di Milano. E per, vedi che per tutto c'è un perché. No, no, invece il disco è stato anche inserito nella rosa dei finalisti della Targa Tenco, hai capito? Ma d'altra parte quando si parla effettivamente di arte è notorio che... Vabbè. Normalmente non ci si capisca niente. Io e te, ecco. Oh, finalmente siamo arrivati al perché. Abbiamo detto che stasera parleremo di cultura, ma soprattutto della cultura alta. Parliamo di scuola. Di scuola, di con, scuola la con la Q maiuscola. No, a parte scherzi, parliamo dell'Istituto Tecnico Settore Economico Laparelli di Foiano. E perché ne parliamo? Bravo, perché ne parliamo? Perché è importante un valore parlarne. Importante del parliamo nostro paese. Parliamo di Foiano, delle persone, di quello che a Foiano si fa, e si è stato fatto, e c'è delle realtà che sono tantissimi anni, decenni, che sono presenti, che formano la cultura dei giovani che poi saranno che cosa? Tante cose. Ma infatti chi è a parlarne qui con noi stasera? Tante persone, chiaramente. Ma prima di tutto ci sostengono da lontano. Prima di tutti Laura Fei. Ciao Laura. Buonasera. Che è emozionata, ma non, ma niente, non ci può, ma anzi, è guarda, una vittima sacrificata. Sono più emozionato quando vado io in studio da lei, che mi fa pagare le tasse, per dire, insomma. Perché lei è una diplomata, modello, una studentessa modello di ragioneria, che poi ci racconterà Delle cose. Poi abbiamo qui con noi anche Laura. Laura Tezzi, altra ex studentessa di ragioneria, ma nonché, guarda, non lo dire al microfono, dillo da lontano, sei, no, non sto scherzando, il tuo ruolo in questo momento? Rappresentante d'istituto. Quindi anche un ruolo istituzionale. Ed è quella che ha preso più voti di tutti, tra l'altro, tra i genitori, questo vogliamo dirlo, compreso anche gli altri paesi. Poi abbiamo la figlia di Laura. La figlia di Laura, Francesca, che è una nuova generazione. Che è una studentessa di ragioneria. E che poi, devo dire... Dove metteremo anche le foto, gode di ottima salute. Sì, no, ma poi gli faremo anche un'interrogazione, insomma, partita doppia, insomma, le solite cose, via e via. È arrivata? Chi? Singola. Ma sei buono. Ma soprattutto dillo te. Per me, ecco, questo è, non mi sarei mai aspettato di presentare una professoressa. La professoressa di tutti. Gilberta Ghezzi, che... ho avuto l'onore di... Si sta impastando anche l'emozione tanto. No, quello è la salsiccia a cena, troppo aglio. Di avere come insegnante nella materia di tecnica bancaria. Ma tra l'altro vogliamo dire che anche tu sei stato uno studente modello e anche tu diplomato di ragioneria Foiano. Sì, sì, ho perché era la scuola più vicina a cui potevo andare senza pulmino. Anche per noi. Oh, questo è il clima. Ma qual è la finalità? Qual è? Ora ci pensiamo, no. Però intanto è bello essere qui. Faremo più puntate, tra l'altro. Faremo almeno anche un'altra puntata. Stasera parleremo un po' di quella che è la storia di ragioneria, quella che fu, quello che ha creato ragioneria, e nella prossima quello che potrà creare. Guarda, io Enzo, dopo il tuo testamento biologico, questa è la cosa più interessante che potevi dire. Verdena, aspetta, fermo. Razzi, Arpia, Inferno e Fiamme. Un disco del 2011, tratto anzi dal disco Wow del 2011. Si dice wow, vero Simone, che ringraziamo anche stasera. Trova per anche mettere l'interlocutore. Dischi con titoli sempre più facili. E questo era il nuovo disco della rock band di Bergamo, ancora senza titolo. Ah, il nuovo disco non ha una precisa uscita. Perché a volte sono io che sbaglio. Poi chi vuole sostenere la mia causa, insomma, erano su scegliere una playlist musicale predefinita, magari su voto. No, no, allora si vuole preparare tutto, sono io che non sono preparato. Laura Ferri, vuoi parlarci? Iniziamo a parlare un po' del nostro argomento di stasera. Preferito. Noi chiaramente abbiamo nel cuore la ragioneria di una volta, no? Certo. Localizziamo bene dov'è la struttura. Ah, beh, però è facile per ora, dai. La domanda è facile. La location, dove si trova? Ah, beh, si trova comunque all'interno del paese, dentro le mura, nella zona dove c'è tutto il polo scolastico, perché lì c'è anche dopo le scuole la cittadella medie. Della musica, prima c'era la cittadella della cultura. Esatto. E ci sono le scuole medie, c'è il nuovo istituto commerciale e la ragioneria che occupava buona parte dello stabile, adesso un po' ridotta, però... Beh, gli spazi devono essere efficientati. Ai tuoi tempi, che più o meno sono i miei tempi. Ecco, se vogliamo essere dei signori, non gli chiediamo in che anno. Non ho problemi. Brava, Laura. Sì, ma perché porti benissimo. Ma perché sei una ragazza. Sono diplomata. nell'87. Vedi quanto sarà passato. Ma lasciamo perdere. Ma questo che vuol dire? Ha fatto la primina, però. Sì, ma questo che vuol dire? Che se dall'87 siamo ancora qui, perché ti voglio bene. Siamo vivi soprattutto. Si può sopravvivere anche alla ragioneria. No, si vive meglio facendo la ragioneria. Qual è stata la tua esperienza in questo corso di studi? Beh, io sono una di quelle persone che l'ha fatta per scelta, non perché era vicino al paese, perché era l'unica scuola. Le materie che ho studiato mi hanno sempre affascinato, mi sono sempre piaciute, tanto che diciamo dopo ho sviluppato oltre che la passione, anche proprio l'ho fatta diventare la mia attività lavorativa. Io adesso ho uno studio da commercialista, quindi questo che faccio da sempre mi piace, lo faccio con passione e volentieri. Ecco, quindi quello che hai visto, diciamo, quello che sono state le tue motivazioni iniziali e quello che poi è stato il prosieguo dopo la scuola, lo stai ritrovando nell'attività lavorativa, certo, di tutti i giorni. Sì. E puoi dire che quella formazione che hai avuto in quegli anni è stata, diciamo, una formazione utile che ti ha dato le basi, sì, giuste? Sì, sì, perché per fare. Poi per mia fortuna o sfortuna, per eventi personali, ho dovuto cominciare a lavorare subito l'anno seguente. Già nell'88 io lavoravo dipendente, a quell'epoca però lavoravo. E sinceramente le basi che avevo ricevuto in questa scuola mi sono state molto utili per incominciare a lavorare e essere già abbastanza autosufficiente. Quindi, e questo nella tua percezione, diciamo, avendo visto anche il settore specifico come si è un pochino evoluto, anzi forse molto evoluto, si sente che è la tua materia, pensi che diciamo ritieni che possa essere ancora una scelta diciamo che possa dare degli sbocchi, possa essere utile? Secondo me più che tutto è una scuola mirata che va, è vero che si fanno anche materie che possono essere poi utili per degli indirizzi anche universitari vari, però diciamo che essendo una scuola mirata, se poi si ha intenzione specialmente di proseguire nelle materie che possono essere più specifiche, come può essere appunto adesso si chiama economia aziendale, la vecchia ragioneria, eccetera eccetera, quando poi si trova a fare magari esami a economia e commercio o ad altre diciamo facoltà che sono più inerenti, sicuramente sono molto più specifiche e la preparazione è ovvio che aiuta. Ora siete tutto questo nonostante noi faccio la radio cronaca da fuori. Ecco, tutto cioè, questo molto serio sta facendo la prossima. No, perché domanda. Ora mi stavo preparando sulla battuta, se me la fai dire. Scusa. Dico, e tutto questo nonostante i professori. Quindi questo denota tutto il tuo grande trasporto, la tua grande passione, è vero. Nonostante i professori che poi hai trovato all'interno della struttura. Allora, io non posso parlare tanto di ragioneria perché, ma perché? La mia perché carriera è stata disastrosa. Aneddoto, Enzo ha un aneddoto. E a questo punto vorrei invitare qui la professoressa. Allora, io la dico subito. Cioè no, ma no, io voglio la professoressa qui insieme a me. Senza parlare, professoressa, si avvicini e basta. Sia la professoressa Ghezzi. Tanto faremo la foto, poi almeno quella la pubblichi. L'abbiamo già pubblicata una foto? No, sì. No, abbiamo la liberatoria. Sono venuta bene o meno? È venuta di profilo. Nel registro di terza dell'86 c'era la liberatoria per l'immagine. La professoressa con cui ho avuto un ottimo rapporto, nonostante appunto la mia brevissima carriera. Succede quando ti eviti, succede. Sì. Ci fu una cosa bellissima, però la raccontiamo nel prossimo intervento, va bene? Allora, ora facciamo un altro disco di cui ora però studio il titolo, è promesso Simone, e poi dopo continuiamo a parlare di ragioneria. Buon ascolto dalle F frequenze. Always born. It's better I don't move a finger, darling. Always I'm wrong. Every time I say okay, you hear K.O. And every single letter keeps a bit my fault. Right after watching Frankenstein Jr., you're still always bored. It's better I don't move a finger, darling. Always I'm wrong. Always I'm wrong. Always I'm wrong. Everything I do or say, I'm always wrong. Always I'm wrong. However, always I'm wrong. Every single letter gets a big mouthful. Always I'm wrong. Always I'm wrong. Everything I do or say, I'm always wrong. Always I'm wrong. Always I'm wrong. Every single letter gets a big mouthful. Toy Orchestra con Always in Wrong dal disco Butterfly Effect del 2014. Enzo, l'orario inglese chiaramente era sempre fuori, allora, a fare qualcos'altro. No, no, ma no, poi no, ci no. vuoi raccontare un aneddoto? Adesso? Sì, allora, chiaro. Dunque, facevo la terza. Che nello specifico, essendo accaduto insieme alla professoressa Ghezzi, che è qui al nostro tavolo, che non vuol parlare, ma che però qualcosa dice, insomma, sì, che sì, lo dice fuori onda, ma va bene. E salace come sempre. No, quindi, in realtà è per far capire che ragioneria era, è e sarà sempre una scuola che quando uno la frequenta, indipendentemente dai risultati, rimane nel cuore. Io diciamo che nel terzo anno non ero proprio uno studente modello. Anche in pagella, sì. E anche in pagella? Rimane. Sì, sì, sì, no, non ho capito. No, se non vai bene rimane anche in pagella. Certo, e io in terza non andavo bene. Diciamo, i primi due anni me la sono riuscito ad andare avanti. Il terzo anno avevo deciso di fare altre cose, quindi andavo a ragioneria, ma per informarmi. Chiaro, dice, che succede a Foiano? Allora, la professoressa che ci veniva con il Corriere della Sera in classe. Questo comunque non era un giornale locale, no, ecco, aveva tiratura nazionale. Il giornale più venduto in Italia. Esatto. Quindi veniva con il Corriere della Sera e io, diciamo, non seguivo molto, e la professoressa molto democraticamente mi dava il giornale e mi diceva: guarda Enzo, sfoglialo pure, ma quando giri le pagine non fare rumore. E mentre, mentre spiegava. Guarda, è pedagogicamente corretto, perché comunque tira avanti la classe, la tua cultura magari ha altre tendenze. Vabbè, magari sono in grado di ascoltare e di seguire. Magari non ho preso il diploma di ragioneria, però sapevo di fatti. Infatti, avvenuti nell'86. Buon ascolto, lei ti diceva buona lettura. Ma parliamo di te, Marzio. Ma parliamo. Ma non perché non vogliamo parlare serie, con i nostri ospiti, ma per perché la serie noi ce la suoniamo e ce la cantiamo pure. Il discorso è questo, è che abbiamo fatto tutti ragioneria, chi appunto chi meglio e chi peggio, per cui portiamo l'esperienza un po' di tutti. Quindi parliamo della tua esperienza. Con chi eri in classe? No, scherzo. Ecco, su questo ti potrei dare avrei bisogno di 5 anni di tempo, perché forse io posso fare qualche nome? Il Dedo, Maialino, ecco, Moschino, Camilletti, il Nicchio. Beh, se gli dici dei cognomi. Allora, no, poi ecco, andiamo avanti. Nonostante questa compagnia allegrissima, sei riuscito però a studiare. No, io infatti volevo, a seguito di quello che ha detto la Laura prima, volevo dire che lei ha fatto un percorso anche di studi successivi che l'hanno portata a fare un'attività strettamente attinente a quello che la scuola che abbiamo fatto gli aveva, per cui gli aveva dato le basi. Quello che volevo dire io, e ho delle testimonianze, diciamo varie testimonianze, che anche in ambiti molto abbastanza diversi, diciamo, si riesce, volendo, con caparbietà e diciamo voglia di studiare, curiosità, a ottenere risultati. Io non sono ovviamente no, però diciamo una laureaccia me la so presa anch'io. Ma c'è soggetti che per esempio sono diventati avvocati, sì, anche affermati. Dovevano venire, verranno altri. Nella Valdichiana possiamo annoverare, forse, secondo me, se venisse fatta una statistica, secondo me abbiamo il numero più alto di sindaci della Valdichiana, o comunque diplomati a ragioneria. È vero, ce ne sono. Abbiamo molti. Dei casi che abbiamo anche perso, diciamo, che purtroppo non è morto. Però volevo dire che la cultura di base, quindi il programma che veniva fatto in quegli anni, che poi vedremo anche come si è evoluto nel tempo, riusciva a dare le basi per essere pronti sicuramente anche per sfide che non erano strettamente attinenti al percorso di studi fatti e che comunque riuscivano a dare, diciamo, a rendere meno peso altre tipologie di esami che magari, faccio un esempio, il liceo scientifico si poteva... scherzo, no, no. Cioè, questo entusiasmo ti dico che metto parlando, no, della scuola non mi è proprio, quindi lasciami un attimo. In realtà è vero tutto quello che non dici. Non so, Laura, se tu sei d'accordo su questa assolutamente cosa. Se ti avessi ascoltato, se parlo con te, faccio stare zitto anche Enzo. E che il silenzio di Enzo è sempre ben accetto. Ben accetto. No, però voglio dire questo: innanzitutto, negli anni scorsi era proprio un riferimento per tutta la Valdichiana. Io, cioè, voglio dire, Sinalunga, Lucignano, Marciano, erano tutti paesi che venivano a studiare a Foiano, tutti i ragazzi degli altri paesi venivano a studiare a Foiano. Che cosa ci riproponiamo? Ovviamente non possiamo pretendere di invitarvi tutti quanti, però ecco, è far capire che ragioneria, e poi lo vedremo meglio più avanti in questa trasmissione, ma anche nella prossima che faremo fra qualche settimana, si è evoluta. Ecco, no. Volevo dire che chi aveva bisogno della navetta per venire a scuola a Foiano ce lo faccia sapere, perché la finalità è predisporre trasporti. Cioè, io dico, ho tutto un discorso, e poi dopo la ma fine. Non ti è proprio. Remember this all of our lives. E questo era Last Good of the Year. Aspetta. Last Good Day of the Year. Falla sentire, Simone, tutta, così dopo rifacciamo l'intro. È il brano che ha reso famosi i Cousteau. Jacques. No, io vi chiedo scusa a tutti, sì, quelli che ci stanno ascoltando, perché potrebbero pensare che siamo un pochino così farfalloni. Volevo salutare Barbara che ci ascolta dalla Svizzera. Ha fatto ragioneria, ha fatto in ragioneria. Quindi di strada se ne fa anche con ragioneria. Lei è arrivata in Svizzera. Esatto. Ma adesso, no, adesso facciamo una domanda seria. Basta così. Silenzio. Con i saluti. Ah no, è vero. Vabbè, dopo. No, io volevo, scusa, una cosa, volevo salutare dall'Argentina, quindi una carrambata, Marcela, Gabriela, Hernan e Juan, che ci ascoltano dall'Argentina. Ah, okay. Sono parenti miei. Oh. Anche Silvana, che oggi finisce gli anni. Allora, io saluto la mamma. Interesse privato in atti d'ufficio. Saluto la mamma e mio fratello. Vai con la, vai con la discorsi, no, con allora, la domanda seria. Nello sbando totale, fuori onda, okay, parlavamo con Laura e che è stata appunto studentessa di ragioneria, mm, e che gli studi hanno fatto sì che abbia potuto aprire un'attività inerente, ma soprattutto ci diceva... recidiva. Recidiva, esatto, perché anche sua figlia Francesca, che è qui nello studio, che salutiamo, ciao! E al quale abbiamo già fornito il numero del telefono azzurro. Che frequenta anche lei ragioneria. E ci stava Laura facendo notare le cose positive, le migliorie rispetto al passato, che era comunque buono. Sì. Io, nel senso, è un istituto piccolo, perché comunque c'è un unico corso di studi che va dalla prima alla quinta, però sono molto seguiti, le classi non sono numerosissime e di conseguenza è stata anche una scelta il fatto di mandare Francesca, perché Francesca non so se seguirà le orme della mamma, sinceramente, perché è più sportiva, però, nello specifico, ecco, è stata proprio anche una scelta legata proprio all'istituto, alle persone, agli insegnanti che ci sono attualmente e alle competenze che possono trasmettere e l'organizzazione. Ci sono diversi laboratori e sono molto seguiti i ragazzi, e appunto sia per il numero sia perché proprio per scelta dell'istituto. Io quando, ecco, sono stata alla presentazione alla scuola aperta, sinceramente ho avuto l'impressione di una buona scuola legata anche ancora a valori forse che magari in istituti più grandi è ovvio è più facile perdere, voglio dire, e quindi è stata anche una scelta, ripeto, anche se io l'avevo già frequentata, quindi non solo per questo motivo ma proprio per come è adesso la scuola, quindi consapevole, diciamo. Allora, parlavamo prima, ci siamo fatti una battuta che io l'ho, diciamo, l'ho fatta come tale, ma mi hai dato lo spunto. Parlavo di POF, il piano di offerta formativa, che, diciamo, ho detto come battuta, è un po' povero, tu mi hai detto ci sono pochi soldi. Ora, a parte il programma, che chiaramente è ministeriale, ma quanto incide secondo te nella riuscita di un percorso di studi anche il lato umano, il lato professionale, le persone che i ragazzi possono trovare nei vari, esatto, ambienti scolastici? Esatto, è anche questo è stato veramente uno dei motivi per cui la scelta è anche caduta in questo istituto. Poi, per esempio, ci sono persone molto motivate all'interno, ora non vorrei far torto a nessuno magari parlando di una persona piuttosto che un'altra, però per esempio anche la prof di francese, anche Samani, li ha portati, portato tutto l'istituto a vedere un spettacolo teatrale. Ricordiamo a Cortona, il nome della prof di francese? Nadia Domenicone. E, per esempio, ed è una delle persone più attive all'interno, la professoressa Ciabatti, che si adopera per esempio anche per queste iniziative collaterali, eccetera, e quindi anche questo è molto importante, perché loro hanno una collaborazione, quest'anno hanno aderito ad un programma dove collaborano con una scuola francese, se non ricordo male. Sì, cui appunto fanno degli scambi anche per la lingua, eccetera, eccetera. Fanno i corsi del Trinity, ecco, per infatti, poter prendere. Laura, questa è una cosa che a me è interessato molto, perché ho visto che sia per inglese che per francese, sì, c'è la possibilità anche di avere le certificazioni tipo il, esatto, Trinity, esatto, il PET, il DELF, che chiaramente oltre alla patente europea per l'informatica, sì, avendo un laboratorio, infatti, attrezzato. Quindi diciamo che da un punto di vista organizzativo e di attrezzatura non manca nulla. No. Ah no, se c'è anche le persone motivate, diciamo, esatto, che il buon, esatto, esito del percorso dei studi dovrebbe essere, se non garantito, comunque a stretta discrezionalità dell'alunno in questo caso. Esatto. Devo dire anche che facciamo qui gli stupidotti, ma insomma ogni tanto ci proviamo anche a informare su quello che andiamo a fare come trasmissioni. Ho avuto il piacere di conoscere alcuni professori, sono stato proprio dentro l'istituto, e sinceramente la cosa che mi ha colpito di più è la passione dei professori. Fatti, la passione dei professori confermo. Che hanno per questa scuola, per gli alunni e di conseguenza per tutto quanto. Tra l'altro dirò che preparando questa trasmissione, perché sono almeno 3 mesi che prepariamo questa trasmissione di stasera, ho notato che... Ti ricordi Fra Natale e Santo Stefano? Sì, sì. Ho notato che Enzo guardava diciamo la stesura di questo programma con occhi che secondo me potrebbe anche ritornare a scuola. Sì, sì, beh, potrei. L'altezza c'è ancora. Sicuramente sbaglierà orario e portone, però potrebbe però essere motivato. Provare. Bene, dopo parliamo degli Open Days che sono molto molto interessanti, ma ora parliamo di tennis un'altra volta. Sì, no. Primus, e si sentono, ecco, Electric Uncle Sam. Io farei una specie di blob, farei una trasmissione solo facendoti enunciare, disannunciare, annunciare i titoli. Ma perché lo faccio io poi, se hai capito? Ma non lo so, ti sei assunto questo incarico, per me lo puoi fare tranquillamente perché io mi rifiuterei, perché è musica allora, che tale è l'entusiasmo per questo argomento che ci stiamo dimenticando un po' di ricordare tutti quelli che sono gli appuntamenti che durante la settimana il programma Piazzalta vi offre. Partiamo dal 1976, no, da più recente. È un po' prima. Allora, noi abbiamo, signore e signori, una pagina Facebook, è vero, dove potrete trovare domani, già domani, vero Simone? Non lo no, so. No, però aspetta Simone, ti volevo fare una domanda. Mi dica. Perché non hai fatto ragioneria? Io? Perché avevo altre capacità e ho voluto... E guarda... Ok. E guarda caso siamo tutti finiti a Radio F. Che ragioneria o no, tutti a Radio F siamo arrivati. Ecco, il futuro potrebbe essere quello di tutti, di speaker radiofonici. Eh beh, hai detto niente. Allora, fammi questo fare il mio lavoro. Extracurriculare però. Abbiamo, dicevo, la pagina Facebook dove domani già sentirete il podcast di questa trasmissione per intero. Taglierà la musica. Non credo. E poi nei prossimi giorni gli appuntamenti del weekend, queste sono pagine curate dal nostro Simone tecnico, vero? Io ho impegni per giovedì. Sì, ma non i nostri, quello che si può trovare in giro. E poi possiamo anche il lunedì, un lunedì da Leone, una serata da Leone. Lo fai da due anni, non mi riesce. E poi li guardo tutti i film che metti. E poi abbiamo anche il canale YouTube dove troverete anche i fuori onda di questa sera, che sono pari agli onda. Yeah. Già, ma il fuori onda e poi gli entra onda. No, c'era onda su onda, ma era un freddo buon gusto da me. Oh, ma tornando a parlare ancora, che noi ci dovete perdonare, noi continuiamo a dire ragioneria perché siamo di un'altra epoca, ma in realtà sarebbe l'Istituto Tecnico Settore Economico Laparelli. Bravo, bravo. Che tra l'altro, diciamo, viene qui a Foiano la professoressa ha chiesto chi era Laparelli e noi glielo diciamo. Era un architetto. Era un architetto che ha fatto ragioneria, per dire, no? Chiaro, no. Tutti quindi... usando ragioneria si arriva anche da altre parti. Volevi dire una cosa intelligente? Non è possibile. No, che è una sezione distaccata di Cortona, perché l'istituto certo, ha come sede principale Cortona, ma noi ci vantiamo di avere questa primizia, questa punta di diamante proprio a Foiano. Esatto. Era questo che volevo dire. Ma poi quando finisce con questa voce che va in calare, mi fa... non so dove... Vabbè. Allora, c'è una cosa molto importante che accadrà fra un paio di settimane, anzi meno, fra una decina di giorni, ed è l'Open Days. Okay, ora si ride. Attenzione. Questo Open Days viene fatto, aiutatemi però, all'interno di ragioneria. Certo, okay, scuola aperta. Ed è una scuola aperta, c'è un incontro con i ragazzi delle medie e i loro genitori. Allora, i ragazzi delle medie o chi insomma ha interesse a venire all'istituto sia a studiare sia a vuol cambiare anche istituto da altre parti, possono visitare la scuola. Ci sono di solito presenti almeno un paio di insegnanti o tre che fanno vedere proprio i locali, quindi nel senso si può visitare la scuola, però fanno anche illustrano anche i programmi e danno un'idea quindi dei laboratori, delle attività che vengono svolte. E normalmente ci sono anche dei ragazzi che attualmente frequentano che fanno accoglienza a coloro che dovranno venire a turno delle varie classi. Okay. Chiaramente questo... anche noi ci rendiamo disponibili per fare due ore di spettacolo. Ma aspetta, tu non sai, lo sai, ma fai finta di non saperlo. Sarà appunto sabato 17 gennaio dalle 15 alle 18 e tu sarai ospite. Io ho un impegno. No, tu sarai ospite per la tua esperienza che hai avuto a ragioneria. Ma non so e se, io, se è per ora la causa. E io farò l'intrattenitore. Sono ancora sposato. Ma sono dimagrito e la fede mi... Qui festa grande. Allora, dicevo. La professoressa sì. D'altronde si informa su quello che sta succedendo ai propri alunni, ex alunni. Ho perso solo i capelli per ora. Allora, questo Open Days sarà... Questo è affetto, sì, assolutamente. Cioè, non è questo distacco che alle volte qui non c'è. Allora, sarà sabato 17 gennaio e domenica 18 gennaio, sempre dalle 15 alle 18. Nello specifico, sabato c'è una specie di, ma nemmeno tavola rotonda, aiutatemi a dire. Di rinfresco. Ma no, un buffet. Scusate, ho un pensiero a senso unico io, quindi. Laura, aiutami tu, anche tu. Che sarà sabato di preciso? Un incontro, è vero come avevamo detto, ma sarà mediato, è quello che mi preoccupa, dal sottoscritto. Ecco. Io qui non saprò, quindi cioè, sì, io lascerei cadere il silenzio su questa cosa. Giro le pagine lentamente del presentarsi presentarsi con il Corriere della sera o anche la Repubblica o la Stampa, va bene uguale. No, però ecco, io sarò lì e farò da mediatore un po' a questa serata, dove ci saranno alcuni ex alunni, farmacisti, avvocati, commercialisti e quant'altro, dove andranno a raccontare la loro esperienza, ecco, diciamo così. Quindi non mancate sabato e domenica. Essendo a porte aperte anche nel laboratorio si può prendere i monitor, si può prendere i computer, le tastiere, portarle. Abbiamo appena pubblicato sulla pagina Facebook proprio la foto della sala dell'aula di informatica. Ecco, potete vedere il modello che più vi piace e portarlo via. sono pazzo e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Ti sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo, ti sono pazzo e oggi voglio parlare. Questo era un doveroso omaggio a uno dei più grandi della musica, che anche lui ai noi ci ha lasciato, Pino Daniele. Questa era Gesù Pazzo del 79, e gli mandiamo un saluto ovunque sia, e ci spiace, però lo ricordiamo volentieri. Come ha detto un signore di cui non ricordo il nome, ci mancherà quello che dovrà, che avrebbe dovuto fare, ma abbiamo tutto quello che ha fatto e non è poco. Ma io, beh, ora a questo punto non farmi entrare in voce a me, perché potrei solo rovinare questa cosa. Oh, dunque. Allora, siamo arrivati alla fine. Questa sì. È veramente volata, ma perché ci siamo realmente divertiti. Abbiamo parlato in questa puntata di quello che è stata ragioneria, di quello che ha significato, ma faremo più avanti, fra qualche settimana, un'altra puntata in cui parleremo più specificatamente di quello che è adesso ragioneria e i motivi per cui può essere scelta. E lo facciamo segnalando proprio i giorni di Open Days, perché chiaramente in periodi come questi è sempre più importante saper scegliere bene, perché è un percorso di studi che può essere lungo e ci può portare, può dare gli strumenti per affrontare la vita lavorativa in futuro ai giovani che si presentano oggi. Mamma mia, incredibile, chi l'ha scritta questa cosa? Allora, e io dopo allora io direi, quale cosa migliore di fare questo passaggio di testimone? Abbiamo avuto Laura, a questo Fei. Punto potrei rovinare dicendo, ma ecco perché, ma i sogni no. aiutano a vivere. Allora, dicevo, questo passaggio di testimone, abbiamo parlato con Laura Fei tutta la sera di questa ragioneria che fu pochi anni fa, ovviamente, ci mancherebbe altro. Recente come e esperienza. Adesso con Francesca, sua figlia, che frequenta ora ragioneria, ci facciamo reinvitare all'Open Days. Allora Francesca, dici, quando ci sarà l'Open Days? Nelle giornate di sabato e domenica 17 e 18 vi aspettiamo numerosissimi e ci sarà sicuramente anche io. Vedi, un talento, sono dei talenti. Chi viene e porti qualcosa da mangiare, qualche dolce, una torta alle mele, va bene, una crostata. Sì, ma sì, qualcosa. Che dire, ringraziamo tutti, ringraziamo anche chi non ha voluto parlare, anche se poi ma si è stata una presenza importante, importantissima, la professoressa Gilberta Ghezzi. Ci dica ciao da lontano. Ciao. Laura Tiezzi. Salve. Ciao, ci vediamo all'Open Days allora? Certo. Ok, perfetto. buon ascolto dalle F Frequenze. Grazie a Laura, ciao Laura, ciao, grazie a Simone, grazie a Paolo per le riprese. Ci vediamo giovedì, ci sentiamo giovedì 15 gennaio. Ciao a tutti. Scusate, che ci devo prendere, dire. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Marci e Enzino. Alla parte tecnica Simone. One, one. Alle riprese filmate Paolo. Paolo, Paolo. Buona settimana. Buon ascolto. Piu, piu, piu, piu.